Che cosa hai messo nel caffè, Davide Paolini? Ciao Davide! Ciao, io mi aspettavo Tozzolello o caffè. No, perché te lo dico, in realtà parleremo nella prossima ora di Napoli, quindi beh, ce l'avremo un po' di Napoli, avremo anche un po' di Pino Daniele, però questa volta mi chiedo che cosa hai messo nel caffè, perché insomma mi dici che il caffè è tutto nuovo, allora spiegami un po'. No, non è proprio tutto nuovo, però quello che sta succedendo è una piccola rivoluzione. Ora dire che parlare di caffè qualcuno può dire, beh, insomma, questo si è svegliato male questa notte. No, sta succedendo qualcosa. Allora premettiamo, io da anni vado sostenendo che in Italia si beve un pessimo caffè, mediamente. Mediamente perché? Perché non c'è formazione tra coloro che nei bar, diciamo, ci offrono il caffè ogni giorno. Nel senso che tutti pensiamo di essere imparati, già dalla mattina quando ci facciamo la moca pensiamo di essere perfetti nel far la moca, di correre fuori e di bere un caffè al volo in 3 secondi. Non è così che si beve il caffè. Ma diciamo che la rivoluzione sta arrivando dagli Stati Uniti soprattutto, dove in questo momento c'è veramente una mania per il caffè, sono quelle manie che se durano, diciamo che sono mode. In questo momento sono mode, però speriamo che durino nel tempo, certo, e arrivino anche da noi. Di bar che addirittura tostano il caffè nel loro interno e con prezzi abbastanza alti. Quindi per fare questo ci vuole della formazione. Ma anche qui da noi qualcosa si sta muovendo, perché cominciamo a vedere i caffè filtrati. Caffè filtrati, che è un altro modo per fare l'espresso, ma ne abbiamo tanti. A me piace così tanto il caffè filtrato. Il caffè filtrato però ora in alcuni bar a Milano, almeno a Milano, ma credo che anche a Roma e anche a Torino, cominciamo a vedere il barista o il ragazzo che lo fa, che lentamente mette questa carta conica sulla quale comincia a pesare la polvere di caffè, e quindi lentamente mette l'acqua calda, poi aspetta un secondo, poi piano piano te lo versa in una caraffa, poi tu te lo puoi mettere nella tazzina. Ecco, si cominciano a vedere queste cose, si comincia anche a sentire vuole un caffè monorigine o no, oppure quindi già siamo oppure una miscela, siamo già a livelli, diciamo, di formazione e di cultura. Io stamattina sono rimasto molto colpito, e se non ti avessi detto prima facciamo il caffè l'avrei detto comunque, perché in un bar è entrata una ragazza molto giovane, sicuramente americana, che ha chiesto un caffè e gli ha detto, ma monorigine o miscela avete? Gli hanno risposto, monorigine, qual è, da dove arriva? Gli hanno risposto Etiopia mi va bene. Ecco, io vorrei che non solo un'americana che entra in un bar italiano chieda in questa maniera e chi sta al di là del banco sappia rispondere prontamente, come ho sentito questa mattina. Però devo dire che la formazione si sta espandendo, il caffè sta migliorando, nonostante capsule e diciamo macchinette del caffè siano ormai ovunque si beva in questa maniera, che io la ritengo un modo selvaggio di utilizzare il caffè. Però delle volte bisogna fare le necessità virtù di certe cose. Ma cominciare a sentire la differenza tra arabica e robusta, farsela spiegare in questa maniera, ecco, io credo che siamo sulla retta via. Siamo sulla retta via, nel senso che il caffè migliorerà sicuramente, le aziende cominciano a fare molta formazione e tutta più non si berrà più il caffè in 10 secondi al banco, certo, trangugiando, e non invece assaggiando la crema, guardando la crema, guardando anche il colore del caffè, quindi così come si fa sul vino. Io credo che siamo sulla buona strada, questi sintomi cominciano a vedersi e spero che si continui, appunto, ma magari che anche a casa la moca. Ecco, la moca è un mezzo che sta tornando, sento moltissima gente che invece di correre in ufficio con la macchinetta comincia a farsi la moca, si cominciano a rivedere le moca in circolazione. Non dico di tornare alla napoletana, perché coi tempi che corrono mi rendo conto che è impossibile in una civiltà come la nostra che va di corsa che si torni a questo. Alla lentezza della caffettiera napoletana. Io non pretendo che si chieda come è stato tostato quel caffè, però già, come dicevo, già molti bar, io ne ho già visti tanti, che si fanno la tostatura e la macchina la controllano, e credo che veramente, così come è successo a metà degli anni Ottanta, quando del vino non si diceva più bianco o rosso, il cameriere quando si entrava in un ristorante dimenticando le differenze, oggi si possa chiedere anche appunto miscela o monorigine, oppure si possa chiedere filtrato o espresso o tante altre maniere, perché ormai ce ne sono veramente veramente tante di maniere. Il caffè è un fatto importante perché assolutamente alla mattina è vero, cioè dà uno sprint, ma anche pare che abbia anche delle, così, delle qualità che tutti hanno voluto sempre mettere al bando, che fa male la caffeina, d'accordo, bisogna non esagerare, non è che bisogna prendere 6 caffè, 7 caffè al giorno, però un numero contenuto a chi non soffre magari di cuore probabilmente, o di altre malattie che possono interessare il caffè, io credo che faccia molto bene. Allora, io solo 2 caffè al giorno e basta, però me li godo, io 2, ecco. ma con gusto. Filtrati te li devi godere per forza, perché non puoi trangugiarlo, devi assolutamente berlo. Allora, quindi c'è Raffaella da Torino che dice: bravo, bravo, in Italia il caffè è buono solo a casa mia da un po' di tempo. Raffaella, io quando passo da Torino le faccio una citofonatina così solo per controllare. E poi la signora Maria ci chiede del caffè biologico, se esiste davvero, perché a volte la scritta biologico l'abbiamo detto tante volte. Esiste. C'è qualche torrefazione in Italia che importa o controlla direttamente la produzione in alcuni paesi, che appunto il terreno è biologico. Bisogna vedere se tutte le fasi poi sono biologiche, perché biologico deve essere anche l'atto della trasformazione, devono essere tante cose. Però io anch'io ho visto di una torrefazione, non voglio fare il nome, una torrefazione seria che ha scritto sopra biologico. Però io credo che sì, biologico è importante indubbiamente, ma se è un caffè veramente garantito, che ha avuto dei passaggi con non sfruttamento, da dove arriva, ecco, soprattutto cominciamo a guardare anche questo, non cominciamo a guardare solamente il se è biologico o no, anche da dove arriva, anche questo è un fatto importante, attraverso quali mezzi arriva, attraverso quali passaggi. È evidente che uno quando la mattina va al bar, al caffè, e non è che sta lì e va a controllare queste cose. Magari uno che se lo compra in polvere per poi poterselo fare a casa, allora ha più tempo di fare queste cose. L'altra cosa, si parlava di Giro d'Italia prima, è evidente che anche il caffè ha un suo Giro d'Italia, perché non tutto il caffè è gradito, lo stesso caffè al nord, al sud e al centro. Ci sono delle differenze enormi tra godimento e gradimento del caffè tra il sud e il nord. Tutti sosteniamo che a Napoli il caffè si beve il miglior caffè per un motivo d'acqua. Ecco, io questo non lo so, ma ormai con tutte le tecniche che ci sono per diciamo depurare l'acqua, anche questo è meno vero. Però c'è il clima del caffè a Napoli. La verità è che la canzone Utazzolello Caffè di Pino Daniele ce la insegna. Come quando si va in un ristorante e c'è un certo clima e si entra dentro, oppure quando si va in vacanza e si mangiano certi cibi, poi quando si torna in città non sono più uguali. La stessa cosa capita per il caffè. Davide, sono già le 15:27, abbiamo veramente solo un paio di minuti, ma almeno un flash sulla tua chicca della settimana, sul tuo ritrovamento li vorrei. Cosa hai scovato? Allora, io ti porto nel Parco delle Dolomiti. Oh, che meraviglia! In un paesino sperduto che si chiama Quero, e dove c'è la locanda di Solagna. Questa locanda di Solagna è veramente la frazione si chiama Vas di Quero. Vas ha 430 abitanti, c'è solo questa locanda. Che gioiello! C'è solo questa locanda sperduta appunto in questo parco delle Dolomiti con 4 case attorno, dove si mangia quasi tutto a metro zero, perché tutte le verdure arrivano dall'orto vicino, si può vedere. Addirittura mi diceva il proprietario che sono riusciti ora anche a coltivare il carciofi addirittura sotto le Dolomiti, pensiamo un po' a quali miracoli. E qui si mangiano una serie di piatti che sono molto legati appunto alla tradizione locale, quindi delle zuppe di verdure, ma la zuppa d'orzo è quella probabilmente quella principale, quella diciamo che il clou di questo posto. Ma non si mangia ovviamente solamente questa, si mangia anche carni bianche, si mangiano carni bianche come la faraona fatta con le erbe aromatiche e il coniglio in tecia, come dicono da quelle parti, cioè il coniglio in casseruola. Si mangiano anche i ravioli farciti di piccione, oppure i contorni sono tutti di verdure locali, e ci sono anche dei dolci molto particolari. C'è un dolce del vescovo, così chiamato, probabilmente è passato il vescovo da quelle parti e quando è andato in passaggio gli hanno fatto un dolce che è abbastanza ricco, come si fa quando c'è un ospite importante. Amaretti, pinoli e meringa addirittura, quindi una cosa abbastanza importante. Poi ci sono anche i salumi per poter iniziare, la soppressa, quindi la soppressa veneta si trova un po' in tutto il Veneto, qui è fatta localmente, quindi è un qualcosa di molto particolare. Dicevo locanda a metro zero, perché quasi tutto è fatto in casa, ovviamente ci sono delle cose che arrivano da fuori, l'olio non è locale, ma tutto il resto è locale. Ci sono 6 camere anche, quindi dove si può anche mangiare, arrivare di sera a dormire al fresco delle Dolomiti, con un'accoglienza che è tipica da queste parti. Devo dire che è la mia scelta preferita, una locanda e magari rimanere anche a dormire, che poi non hai il problema di guidare, andare via. Ottima indicazione, grazie Davide Paolini, ci troviamo il prossimo sabato, ciao Davide! Ciao, a presto!